una cosa bisogna lasciarla stare un po'. Ma però la soddisfazione me la son tolta. A palla tutti quanti ribalti arrivia, non ce n'erano di ostacoli. Sempre a palla. Ok, dai, detto questo vi saluto, ci risentiamo. Ciao ciao. Ciao Antone, alle prossime. Natalia, se sei in ascolto, se hai il numero di Giulio, mandagli il mio contatto, il mio numero, così se lo segna, capito? Giulio, ci sei? Sì, ci sono, ci sono. Sì, Antone, sai cos'è Antone? Il bello è arrivare con bassissime potenze. Se uno poi ha quelle possibilità, chiaramente tu mi dici, ma io con quella possibilità ho possibilità di andare molto, ma molto più in là. Dall'altra parte della terra. Io devo dirti la verità, un paio di anni fa sono arrivato in Florida con 4-5 watt, non di più, cioè con un semplice baracchino e con un semplice microfono. E questo la dice tutta, arrivare lontano con niente, con una cosa normalissima, con un omologato, è bellissimo. Se poi uno ha un sacco di watt, è chiaro che non c'è da meravigliarsi che arriva dall'altra parte. Mi sono spiegato a tu. E Antonio magari ha chiuso, sì, io l'ho capito il concetto. La cosa strana è bella, è quello, cioè arrivare lontano quando c'è la propagazione con pochi watt, certo. Anche io ne ho fatto tanti collegamenti così, perché io non è che faccio largo uso di watt, basta avere una buona antenna, e tu ce l'hai Giulio una buona antenna perché hai la Game Master ed è ottima quella, e poi sei in una zona anche aperta, per cui quando si apre la propagazione anche con pochi watt già vai lontano, poco ma sicuro. Certo, sì, stiamo parlando della Florida, stiamo parlando dell'America, non stiamo parlando dell'Europa, stiamo parlando dell'America, perché la Florida è l'America, vedi bene che, ripeto, è ancora una volta sempre il miracolo della propagazione, è così o Carlo? Sì, esatto, io lo stesso, da casa, da qua, in AM, ho collegato l'Indonesia ed ero con 5 watt, e pochi giorni fa lo stesso sono riuscito a parlare col Brasile addirittura, dipende da come si apre la propagazione, capito? Molte volte verso l'Atlantico, Brasile oppure gli Stati Uniti, capito? E quindi, ma anche se non usi molti watt arrivi lo stesso. Appunto, è quello, ma è la soddisfazione è quella. Se poi uno carica, non è che hai fatto niente di speciale. Il bello è arrivare così, con la minima potenza, come sto uscendo io, come usiamo quasi tutti, dai. Se poi uno carica, non ha senso secondo me. È bello lo stesso, certo che è bello, non c'è problema, però la soddisfazione è arrivare sempre con la minima potenza che uno può usare. Vai ancora Carlo. Sì, esatto. No, poi diciamo per la città qua se hai l'antenna esterna, un impianto fatto discretamente, penso che con i 4 watt dell'omologazione penso che vada più che bene, non è necessario caricare più di tanto. Io già mi sono organizzato anche per quello, ho un piccolo amplificatore ma lo uso raramente, capito? Qualche volta provo a fare VX in banda laterale, capito? E più di uno ne sono riuscito a fare, ma il più delle volte la chiacchierata che ci facciamo qua esco con i 4-5 watt della radio e basta, e va bene così, e a volte riesco anche a fare collegamenti col resto d'Italia. Beh certo che sì, ma è così, in effetti è così. Va bene, dai, io adesso mollo, stacco e vi saluto, vi ringrazio per le due chiacchiere che ho fatto stasera e a risentirci, dai. Appena che ricevo il tuo recapito telefonico, Carlo, ti mando quella cosa così, poi curiosità, per farti capire che ti può anche interessare, poi vedi tu. Va bene, ciao Carlo, grazie per quella chiacchierata, ciao Antonio, Gianni se ti ascolto, Natalino e quanti ce ne sono, ciao, saluto a tutti, ascolto il finalino e poi chiudo, vai Carlo. Sì Giulio, non ti preoccupare se devi chiudere, vai pure tranquillo, mi ha fatto piacere risentirti, quando vuoi bussa sempre, sei il benvenuto qua sul canale 10, non ci sono problemi, io non ci posso essere sempre, a volte la sera, a volte la mattina, comunque sì, qua o te lo manda Gianni o te lo manda Natalino il mio contatto, capito, perché così mi segna anche il tuo, ce la risentiamo alle prossime, ciao e buona serata Giulio. Ok, ciao, ciao Carlo, grazie ancora per la chiacchierata, ciao, chiudo. Gianni sei rientrato tu, io sono in ascolto e se c'è qualcuno già rispondo, mi sbrigo qualcosina qua a casa. Attenzione 10, c'è qualcuno? Isabeo, me ne andava. Ne anda bene, oh signor. Tutti scappati sono. Cosa? Tutti scappati sono. Sono andato a mandigare, tutti morendo di fame. Vabbè. E io anche fino alle 8, 8 e mezza posso stare perché tanto adesso non ci scendo al caldo. E infatti. Ui, ui. Ma te l'immagini, quando vado io a ricaricare capa non c'è il collegamento. Boh. E vabbè, ma domani ce l'avranno sicuramente. Sì, penso di sì. Già mi avverti lì, ho detto quando torna. Perché dice stanno facendo aggiornamenti. Ah, quindi è da tutte le parti così. Logicamente se tu vai ti dicono che non hanno il collegamento. Già pagava, e vabbè. Già, lo sai cos'è che ce l'hai tre, mi pare. Fanno gli aggiornamenti e quindi non possono fare niente loro, capito? Ehi, fidatelo anche tu che va un bel bene. No, Inari. Ah, ecco. E vabbè. Sì, non è che io sia. Siamo quasi a fine mese. Gaba gaba. Ma che bello, ma giù di bava tutto lo buffo di rassicurazione. Io ad agosto ce l'ho, ad agosto l'assicurazione. No, io ce l'ho adesso. E vabbè, non sarà molto l'assicurazione, io pago sulle 160. No, io pago una cavolata per lo più, però non so, il reddito di cittadinanza non ne ho questo mese, perché non... perché mi è scaduto e quindi pochi soldi. E quindi cosa fanno? Lo devi rinnovare tu? Allora, se non lo rinnovi non fa, capito? Che per permettere a me di casino la gente. Ioia. Oh, ioia. Si da tutta una sciaiete, ma magari poi ti danno l'arretrato. No, non te ne vanno, non è che senta, ti fanno rimanere. Cava cava, è un casino, eh. Questo microfono bene va a cali? Sì, va benissimo, io ti sento bene. Bene, bene. Beh, beh, beh. Beh, beh. Bobo, tu ti appizzi se scendi, mi mandigato attisi? Stavo lavando la macchina, io oggi ero mandigato, a casa di nuovo a mangiare, solo ho trovato un quarto, oggi allora i gardini a Giovanni. No, ma ora sono sciacquata la macchina, che c'è un po' di fresco, mi ho commutato il Galaxy adesso a farlo andare un pochino. Cava cava, io avevo attaccato il Midland perché era un bel di tempo fermo, adesso lo faccio andare un po'. Ma sei sempre a casa in macchina? A casa sono. E io va bene. Gianni, io non è che sono abituato a sentirti rimbombante, forte, di queste modulazioni normali, non sono abituato. Qual è il 48 plus multi o il 48 normale? Ho detto che questo è l'Intec stazione base. No, scusa già, avevo capito Midland. Io Midland non ne ho più, l'ho venduto. Tutti? Il 48, il 48 plus multi? Tutti venduti Midland, prendeva altro più splat. Eccolo sì. Claudio, io sto usando il 3009, il mic originale, 3009 versione omologata, e il mic originale di serie che è marcato Star. Come è orecchio? Claudio, c'è Faraggio. Ma sento delle voci sottofondo, mica c'è Natalino, anche Natalino, riprendi. Natalino, che ora è? Forse sta mangiando. No, le 8 meno un quarto sono. Come uno splatter, lo sento voci sottofondo. Tu le senti, ma? Saranno di propagazione, boh. Non le sento, sento più QRM, QRN. No, propagazione. Ehi, ho detto, Claudio, ma mi copia, ho detto, questo è il 3009, omologato col mic di serie. È più alta la modulazione rispetto a quella di Gianni, non so perché, boh. Ha più tonalità tu, amico, là è proprio normale, normale, però va bene lo stesso. Io non l'ho mai toccato, Claudio, come mi ha arrivato dalla fabbrica. Marco invece calci sempre due candy. No, questo no, però sai cosa ho fatto? Allora, dentro il microfono star c'è una c'è, mi pare, non una spugnetta, forse una doppia spugnetta, è troppo grossa, io ho dimezzato lo spessore della spugnetta, di quella spugnetta che c'è dentro, capito già, tutto lì, forse più aperta per quello. Boh, non lo so. Ah, gli hai messo la spugnetta più fina? Sì, perché hanno il vizio, anche nell'Intec 5005, lì avevano messo questa spugnetta talmente pressata che il suono faticava a passare, capito, ad arrivare alla capsula. E anche quelle sono migliorie che ho letto sui forum, sui tutorial su YouTube, piccole migliorie che però poi tra un trimmer alzato, la spugnetta alleggerita, ti migliorano molto ma molto la modulazione. Ehi, vabbè, ma io adesso vi faccio arrivare un microfono e vediamo un po' come va. Mi dici quello che ha, che c'è a Marco, che va molto bene. Che attacco ha quel... Ah no, 3009, giusto, cosa sto dicendo? Ascolta, ma cosa c'è, attacco Midland o attacco per il 3009, direi? 3009? Cioè, almeno loro ti chiedono come lo vuoi, e io gli ho detto 3009, che poi è uguale al Cobra, che è uguale al Galaxy, eccetera. Perché l'attacco lo mettono loro? No, lo spinotto c'è già nella confezione, non collegato, però se tu hai una, gli dici mi servirebbe per il Midland, loro te lo fanno loro, capito? Almeno così ho capito. Però credo che di serie esca già per, c'era scritto sull'annuncio, mi pare, Cobra, Galaxy e Superstar automaticamente. Vabbè, questo qui, questo Inter che ce l'attacco a 6 punte, a 6 pin, perché aveva il microfono up-down, ma l'ho tolto, gli ho messo questo Proxel e va benissimo. Vabbè, non mi metti attacco up-down. Non ne metto, ma devo praticamente cambiare il microfono, quindi adesso non mi conviene tenere la spugnetta, fare questo, fare altro, devo mettere il microfono nuovo praticamente. Ti prendi uno di quelli che c'ha Marco, e allora attacchi quello, lascialo io, se ha di buono fa modifiche, avvisa la radio Viccia, mettiti il microfono buono amplificato sul 3009. Ehi, invece la mia è nuova nuova. Ma sapere che sia nuova nuova, cazzo, già lo so che sono nuove le radio, anche le mie vecchie sono nuove. Radio Vecchia, Radio Vintage, mettiti il microfono sul 3009, che è una radio seria, una radio nuova, nuova che non è vintage. Vabbè, sì, lo devo mettere lì, infatti, là. Un attimino solo che mi annotano un secondo qua. Ehi, ciappa gappa. Come sta andando invece io con il Galaxy, Marco, bene? Bella forte. Poi sto ricevendo col 3009, che ha una timbrica che a me piace di più, a parte che rispetto a quel precedente di prima, l'altoparlante è molto più grande e quindi la qualità è migliore di riproduzione. Poi c'è appena appena di toni più alti di ricezione, come piace a me. No, quindi va bene questa? Allora, a me va bene tutto. No, questa non ha toccata niente. Tutto regolare, sta dando. Ehi, quasi 100 watt sta dando. Quasi 100 watt. Ehi, ma Natalino non c'è più, Natalino. Io sono andato via che c'era ancora Carlo e poi mi sono distratto, ero al telefono, eccetera. Vabbè, io stavo lavando la macchina e poi adesso sono tornato. Ma mi sa che Natalino è indaffarato, dai. Ui, che giornata brutta, guarda. Che giornata brutta, giornata bellissima, caldo fuori, fresco dentro, guarda, è bello questa casa che è un bel fresco dentro, ma fresca veramente, si sta da Dio. Fuori è un caso a morire. Stamattina, vabbè, in veranda si trova bene, c'era un po' di venticello, lì non tocca il sole, quindi si stava bene anche fuori. Però se vai nel giardino è un caso a morire. Vabbè. KK. Va bene sto Galaxy Dash, già va bene. Ehi, ha voglia, e che mai che li hai accoppiato? Qua c'è l'MB più 5, MB più 5, attacco diretto, senza nessuna adattatore, MB più 5. Eia. Sì, l'MB più 5, guarda, in proporzione va meglio di quello da Palmo. Quello da Palmo spinge un po' pochino, anche come timbrica. Qua c'è il più 5 e il più 4, nonostante siano ZG, sono microfoni, diciamo che bene o male vanno un po' bene su tutto, dai. Il più 4 ha di bello che non ha i toni da regolare, c'è una tonalità unica, però abbastanza bilanciato, dai, come modulazione. Però il vantaggio del più 5 è che se certi baracchini magari escono già più bassi di tono, glielo puoi correggere. Cioè più versatile, l'altro è fisso. Però sai, quando c'è in questo tono sei sempre tu che indi, tono a 5, tono a 4, tono a 3, sono incasinato, già capito. No, io ci do a 0 i toni. Cioè i toni a 0, il microfono a 7, va più che bene, non fischia, risponde bene, ottimo per la truppa. A 0, io se lo metto a 0 io esce cupo, molto cupo. Qua ti volevo dire, sì, il microfono fino a un certo punto, no, sul 3009, quello nuovo che ho io, però a Gianni gli farebbe da collo di bottiglia. E anche qui d'altronde, anche questo non ha il trimmer aperto. Allora, se gli apri il trimmer della M è un mostro, ma se non lo fai c'hai i suoi limiti. Marco, ho parlato in due, chi era l'altro? Marco. E io? Che cosa so, mi si è bruciata lo smicker del 3009, la lampadina. Sì, a me me l'ha fatto due volte, Natali, due volte. E ho dovuto bestemmiare il principale più tutti i santi, perché devi smontare tutto l'apparecchio, il frontalino, manopole, coso. Poi questa lampadina c'ha questi terminali talmente sottili, un decimo di cappello, che te ne escono gli occhi a saldarli. Per carità di Dio, meglio il LED, guarda, mettili direttamente il LED bianco con la resistenza. Cazzo. Per esempio, vabbè, questo c'ha il LED blu, questo omologato nasceva già con il LED blu, tutto è smitter e indicatore di canali. E il LED bianco già ne ho. Poi adesso li fanno già con la resistenza attaccata. Meglio ancora. Quelli ho comprati da internet, c'erano la resistenza attaccata, sia i blu, sia i bianchi, tutti con la resistenza attaccata. Ah già, ti volevo dire, comunque se prendi quel microfono, se lo ordiniamo, ricordati che il 3009, quando è omologato col trimmer giusto, fa da collo di bottiglia un po' alla modulazione, se vuoi te lo faccio sentire. Eia, quindi bisogna aprire il trimmer. Dai raga, io vi saluto, ma ne vado un po' fuori, che c'è un bel fresco, arrivatemi un giorno, ci facciamo una birrettina, ci mangiamo due patatine. Vi saluto, buonasera a tutti e a domani se coincide, ciao. Ciao Claudio, ci sentiamo, dai. Ciao Claudio, buona birrettina, buon fresco, buon tutto e ci sentiamo. Gianni, allora, 3009 omologato, mic a metà, ecco, già vedo meno picchi, mentre con l'altro superstar, quello con le display bianco, no? Cioè, display canali rosso, quello è aperto, è tutto aperto. Guarda, lo metto a manetta, 1, 2, 3 prova, distanza 5-6 dita dal mic, ho parlato anche di 3 quarti, vedi come va, non va più di tanto. Così lontano tutto il braccio, vedi, 1, 2, 3 prova. Non va male, dai, non spinge più di tanto, però la modulazione è buona, non è a collo di bottiglia. come dici tu. Ma c'ha il trimmer, lo stesso, io non l'ho mai aperto, come è arrivato? Sì, sì, credo che sia il VR, qual era? 14 forse. Adesso guarda, adesso sto parlando vicino al mic, col naso che sfiora il mic, e di tre quarti. 1, 2, 3, prova, test, test. Sì, mi accorgo comunque che lo smitter più di tanto non va. Nell'altro è bestiale invece. Vabbè. Comunque l'importante è che la timbrica sia chiara, è fondamentale. Ma infatti, no, ma se può spingere di più è meglio, là. Ma dovrebbe spingere qua, perché questo mio, vabbè, è quello che c'ha canali, eccetera, eccetera. Aspetta che mi ascolto, è poco da ascoltare, c'è qua, fischia perché a manetta. 1, 2, lo metto a metà, fischia lo mattessi, insomma non mi posso ascoltare, dai. Prenditi le cuffie. No, già, non trovo l'adattatore. Mi serve l'adattatore da mono a serio, ce l'ho ma è disperso in casa, per sentire a tutte e due le orecchie. Cappa. Questo qua va bene comunque l'apparecchio, io non da molto che non lo usavo, perché l'avevo messo dimenticato io, l'ultima giù proprio era nell'ultimo scompartimento, diciamo, non lo stavo più usando. Guarda, io ne ho provate tante macchine di questi nuovi, McKinley, Alinco, questi CRT, ma sono tutti rumorosi. Il 3009 in macchina è il più silenzioso, non c'è niente da fare. Sarà grande quello che vuoi, però c'è una bella, un altoparlante bello grande. Insomma, poi sono belle le cromature, dai. Sì, la ricezione poi è micidiale, si sente benissimo, è stereofonica, è una bella ricezione veramente. Vendere poi non l'ho più venduto perché adesso mi si è rotto il Galaxy, non c'è più il Galaxy, quindi mi tengo quello. Ci metto quel microfono lì e poi faccio il gioco. Vediamo se c'è ancora Natalino. Già sono qui. Ah, io ti interrogo. Interroga. Parlami dei 23 centimetri. Aspetta che mi apro la baraghetta. Lo sapevo, io te l'ho fatto apposta. Ho detto sicuramente mi risponde qualcosa tipo bisona, tipo quindi la bisona mia. Tutti noi, era bravi. Fate figuracce. Carlo, sempre lì andiamo a parare, mi. Ho detto magari risponde, 23 centimetri, quanti la mezz'ora, ha parlato di braghetta, quindi siamo sempre in tema. Credo che fossi uscito, Carlo. Io sono entrato da poco, anzi mi ne approfitto, vado a bere, vado in bagno perché mi ho la zampogna, la vescica come una zampogna, e rilancio a te, dai, riprendete. Io lo stesso, prima ero in radio, poi un attimino chi è andato via, eccetera, avevo lasciato la radio accesa, anche io mi ero spostato e sono rientrato adesso. C'era Giulio in chiacchiera con noi, è rimasto una decina di minuti, Antonio, niente, poi Marco e Gianni, non vi avevo più sentito, quindi mi ero messo a fare qualcosa anch'io. Avanti Gianni. Sì, perché ho dovuto fare una commissione, ho dovuto mollare un attimo, da poi ho ripreso. E beh, tu concluso hai. Claudio mi ha mandato il contatto di Massimiliano, l'ho provato a chiamare e non mi ha risposto, magari ha visto un numero strano, ha pensato a qualche call center e non ha risposto. Però mi sono salvato il suo numero su WhatsApp e gli ho mandato pure un messaggio. Probabilmente sta lavorando magari o ha da fare, non ha risposto perché ancora non l'ha visualizzato. E appena mi risponde Massimiliano vediamo se riusciamo a metterla a posto quella radio, perché è un peccato di radio, dai, e cercheremo di metterla a posto. Io guarda, ho trovato una uguale, l'Excalibur, che però gli manca il frequenzimetro, non c'ha frequenzimetro quella, l'Excalibur, è nata così. E volevano 120 euro funzionante. Stavo per contattarlo qui, ho detto ma non me ne frega niente, poi magari arriva anche quella difettosa, si abbia le luci, no, mi tengo questa che ho, diciamo ci metto i microfoni che voglio io adesso e via. Ma Claudio mi ha dato due alternative, se questo Albino diciamo, me la riesce ad aggiustare bene, se no lui mi ha prospettato anche l'ipotesi di mettere una scheda di un'altra radio che dice che è uguale e quindi dovrebbe funzionare, capito? Quindi o una o l'altra, cerchiamo di metterla a posto, capito? Vabbè, io ti auguro di riuscire a metterla a posto, non c'è problema. Io la verità, mi è venuto l'Alzheimer e me ne sono venuto a sbarazzare, stavo per andare a buttarcela, credimi, perché ero talmente nervoso e stavo per andare a buttarcela al quadrato dopo buttare al ferro, sinceramente. Se non mi bloccavi tu ce la buttavo. Infatti io ti ho visto così, ho detto no, aspetta, dammi a me la radio. Ho detto perché era un peccato, anche perché ne ho visto altre che sono peggiori di quella, capito? E quindi non diciamo la rimettiamo in sesto quella, già un po' di pazienza, io già non ho fretta, già la rimettiamo a posto. Ciucchio. E adesso invece mi deve vedere 140 a me, quindi. Se vai a Cagliari, guarda, andiamo assieme, l'ho visto oggi. 140-300 euro a cassetto, basta che gli telefoni e te lo fai mandare. A cassetto? Sì, a Cagliari, sì, l'ho visto oggi, nuovo da negozio. Guarda su quel sito CB, cioè OM, cioè l'arrivatorio, eccetera, eccetera. Stasera, oggi l'ha messo. Quanto? 300 euro con microfono normale? Sì, 300 euro con microfono normale, però è nuovo qua, la verità. Ma con grafio c'ha, nulla, ma con la... ma bello davvero. A cassetto. Se poi vuoi, ci deve pagare le spese di spedizione. Cosa mi stai dicendo del tuo graffiato? No, facciamo col tuo graffiato. No, non ti ho detto quello, stavo parlando. Siccome Gianni mi ha detto che volevo il mio, gli ho detto a Gianni, basta che vai a casa, gli ho detto che pigli 140. Vabbè, pensavo che c'era un graffio. Cioè, hai fatto il tuo, ecco, è nuovo lo stesso. E quello è il prezzo. Quello è il prezzo, 300 euro. No, poi se lo danno a 250, se lo danno a 200, non bene. Vuol dire che non va bene. A posto ci vale 300 euro. Nuovo dentro e nuovo fuori. Come questo. Questo lo stesso. È nuovo in pacca, come quello che c'è tu. Gappa. Va bene. Già sono 23. No, mi ha chiesto il mio Gianni, capito? Io ho risposto a Gianni. Basta che vai a Cagliari, ce n'è uno, ce n'è. L'hanno messo oggi, a Cagliari. C'è anche il numero del telefono. Telefonarle, prende la macchina e va a Cagliari. Qua ci vuole andare a Cagliari, non ci vuole niente, no? E appunto così si risparmia le spese di spedizione. 300 euro, la Cagliari ce lo chiedo subito. Anche la mattina mattina stesso a me. Se ne ha voglia, almeno... Perché nuovo, non c'è un graffio. Bisogna vedere com'è dentro. Non è detto che... Perché è bello fuori. Bisogna vedere com'è dentro. Ci l'hanno educato. Cazzo, mi ricordo con Massimiliano che era arrivato, cazzo, fantastico, nuovo, era così contento. Lo attacca, tutti i bicchi negativi, lo smitter tutto a casino, tutto toccato. Ha detto, dammo, piano piano, ho aperto il mio, e ho messo tutte le posizioni delle resistenze variabili uguali al mio, precise identiche. Sono andato a provarla perfetta, proprio un gioiello era. Però avevano toccato tutto. Vabbè, capita molto. Ciao Carlo, saluto di un bebè, sentito Gianni e Claudio. C'è un break, fallo entrare tu Claudio. Non so se è un break di propagazione, avanti i break. Vamos a ver, break con España, canción del fin, operando José. No, c'è qualche break di propagazione. Se non te lo prendi già. Il telefono, vai a Cagliari e te lo prendi. No, io voglio roba conosciuta. Vuoi roba? Roba che conosco, non mi fido, capito? Cosa ti vuol dire che sei io non ti definisco? La radio c'era, perché per te non l'hai voluta. Perché per te non l'hai voluta. Tranquilla, serena, pulita, ordinata, revisionata tra l'altro, fatta controllare da chi tu sai prima di darla a Antonello. Quindi, vedi tu, più fiducia di quella. Ma Attento Spagna, se va a Isola della Sardegna, adelante, ve l'ho comprendito. Vale, buenas tardes, aquí Alicante, Alicante, Monforte del Cid, a 20 km de Alicante. Ciao, Sardegna, soy José, R. L'operatore Gianni del Delta Romeo della città di Sassari che ti super cordializza. Avanti mio hermano con il segnalito, grazie. Vale, città di Sassari. Sassari, luego miraré por ahí por el mapa a ver por dónde está. Pues nada, entras por aquí bien, entras por aquí un 5, un Santiago 5 Radio R. Santiago 5. Avanti Claudio, riprendi tu. Io non ci parlo a questo lato di spagnolo, non so parlare lo spagnolo. È parecido. Carlo. Sta parlando che mi ha sentito. No, no, mio hermano, no, non intendo far questo, oh, perché non ne ho voglia, sto stanco. Capito? Sto molto stanco, molto stanco. Segnalito per te, 9 de nono, 9 de nono, Radio 5. Ok, ok, vale, buona la ciao, a todo cruce. Muchas gracias, muchas gracias. Anche tu arrivi segnalito de nono, segnalito de nono. Siamo uguali, va bene, va bene. Vai Carlo. Buenas tardes, buenas tardes. Mio hermano della Spagna, se ascolti Carlo, operator dalla città di Sassari, e se n'è andato, dai. Pazienza. Niente, Natalino, gliel'hai mandato tu o Gianni a Giulio il mio contatto, perché ho visto che mi ha risposto. No, negativo, perché non ho trovato il numero, negativo, non ce l'ho fatta a trovare il numero suo. Probabilmente come ho cambiato il telefono, molti numeri li ho persi. Oh, yeah. Come sto? C'è una pompa mica, mica la pompa veloce. Questa sta dando adesso al minimo il 40 watt e quasi 100 modulati. Ora, ora, con la T250, nuovo uno strumento del dettaggino. Precisi, precisi, sogno. Yeah, sono buoni, quei watt a voglia. E sto usando adesso il coso. Il conno 4000. Va bene Antonio, ottima radio, preferisco l'altra, è più corposa, più bella, però anche questa già va bene. Lo sa che ci sono 30 gradi no, che in camera, quindi non mi fido di quella ventola che c'hai, capito? E quindi ogni tanto faccio girare questo. Questo periodo, queste qua scaldano, infatti la tengo sempre a basso regime, non si sa mai, sì. Sono contento che vada sempre bene quell'apparato. Ma tu gliel'hai dato perché? Beh, credo che sia lo stesso Connex. Lo stesso. Non mi ricordo. Antonè, quello è. Sì, sì, è proprio quello che mi hai dato tu. Connex 4000, e ora ho cambiato la mascherina. Io ho messo la mascherina nel 2009. Ma tu va. Io non sono uguali. Sono uguali, tanto. Già va bene. Sì, sai perché? Allora, in origine era tutto grigio, tutto, contenitori, frontalino, manopole, era un po' triste come apparato. E quello c'ha, quanti anni ha, Antone? Del 90 può essere, o inizi 90? Una ventina d'anni, 4-3.000 dicevo io già, perché cioè, è uscito il 3.009, poi il 4.005 e... Dopodiché quello è il tuo, quindi di quelli 90-92. E a quanti watt l'avevi portato poi? Adesso come li batte? 15 watt tondi sono. La LC a manetta, la MC lo stesso e il microfono sa delta. Quello era monofinale, cioè pilota più finale, sai. Io quando avevo 4 watt era una modulazione splendidissima. E anche l'eco l'ho messo a posto, l'ho regolato io dentro. È un eco perfetto, che c'è, capito? Non dà nessun fastidio. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova, guarda un po'. Sì, sì, gli hai allungato la ripetizione, prima era troppo ravvicinata, era più un riverbero, dai. Esatto, però non è fastidioso, sembra cattedrale, là, diciamo. Eia. Comunque da tanto ce l'ha mio, quanti anni fa che te l'avevo dato? Un bel anni fa, sarà 3-4 anni fa. No, e con la X4000 non l'ho mai avuto, ho avuto Superstar, ne ho avuto tre. Superstar ne ho avuto tre, con la X no, però sono uguali. Qui Galaxy Pluto, Galaxy Saturn Echo, l'Herbex, un sacco ne ho avuto di quelli. Quello. Il Comex 4000 non me lo ricordo, vabbè. Gappa. Ricordati Gianni che tu col 60 non macini molto, eh. Vabbè, io lo so, è la mia voce. Lì se dovessi prendere una di queste bisogna trovare un microfono che si adegua a te. Bisognerebbe provare la Donis. Adonis anche senza equalizzatore, che c'ha la capsula dinamica molto forte come acuti, bisogna fare le prove, però vabbè, lo prendi col microfono normale, poi ci vedrà. Ma infatti, ancora non lo sto prendendo, aspettiamo ancora. Che serie, cioè 2 e 4,40, 3 col mio, no, 2, 3, 140, un 4,30 e un 4,40, tutti venduti, tutti, mi hanno chiamato da tutte le parti del mondo, guess. Venduti, e venduti veramente con tanta tranquillità, perché erano tutte belle, nuove e sincere. Il 4,30 perché le dà? Perché ne avevo due, io c'ho il mio, ne avevo due. Mi sono tenuto io il 4,30 e la linea completa del 140, tutta completa, non manca niente, completa vuol dire completa, capito? Vendendo il 140 faccio tutta la linea completa del 4,30 perché è uguale. Cappagatto. Vabbè, adesso già ce l'ho nel radio, non me la fatti nulla. Lasciate che ci sia gente, poi se vedo che si incrementa la questione, ok, se no lascio quelle che ho e basta. Tanto mi sto tirando il microfono, quello là che c'ha Marco, quello che dici tu. Io non vi voglio illudere, ma se passano tutti i CB che stanno facendo il corso per l'esame, ci rimane ben poco, il 27. Molta poca gente, ma poca veramente, pochissima. Cazzo, che pure già vedo che stanno andando al corso, non lo sarei mai aspettato, sono contentissimo, figurati. Perciò ne mancheranno altre 5, se passano tutte e 5 ne mancheranno altre 5, a meno che non si decide di dare un colpo all'incudine al martello, ma con la voga che vanno saranno esempi in VHF e in UHF. Vabbè, chi rimane ci parla, se non ce ne sono di persone non accendo, ne ho altre cose da fare, non solo queste, le altre passioni, o Claudio, non mi interessa, almeno da piccare. Bisogna anche andare a pescare. Bisogna andare a pescare, no, io adesso vedremo un pochino, ho intenzione di riprendermi le carte e iscrivermi alla nuova pista che hanno fatto, la pista nuova, sempre Francolino Meloni, e voglio divertirmi, sono già in contatto con uno di Ottana, che devo andare a vederlo, un kart. Così cambiamo un pochino anche i hobby. Ma dove? A Ottava? La pista di Ottava? No, già pista di Ottava non si cambia nulla, è tutta da rifare. Amores. Ah, da Maglione? Sì, ma c'è la pista dei coccarte che è intitolata Francolino Meloni. Ah, ecco. Prima una volta da Maglione ero invitato a pranzo, c'erano tutti i piloti, cavolo, mi ha invitato a pranzo perché praticamente è un parente di un'amica mia, e ci ha invitato tutti a pranzo, volevo fare una rossità grossa con tutti i piloti, cazzo, abbiamo giunto questo attacco di mal di pancia, ho lasciato potuto stare. Lo conosco bene a Uccio, conosco bene anche il figlio, perché io facevo assistenza a radio quando correva lui, capito? E quindi niente, di questa cosa mi è venuta nuovamente in testa, sono dei corsi imballevati e comunque me ne ha fatti nulla, tanto ci vive una volta sola, giusto così per svagarmi, perché avevo l'intenzione di prendermi la moto grossa, invece mia moglie non vuole, perché ha ragione, non sono più ragazzino, pericoloso, e qui là, allora, un kart. lo carico nel carrello e via. E quando ci sono le gare vado a allenarmi, a fare, a passare il tempo. Ma io stavo per dare quel consiglio, ti prendi una moto grossa e vai in pista a correre. Ma no, ma gli tocca un godo. No. Quattro volte va bene, Gianni, quattro, non sono più ragazzino. L'ho venduta, una l'ho venduta 2 anni fa la moto. No, basta con la moto, va bene lo scooter e basta. C'erano due intenzioni, o comprarmi il nuovo T-Maxi 550, che è bellissimo, c'era un mio amico, l'ho già provato, e ce l'ha... siamo usciti anche assieme, oppure il carti, ma ho deciso per il carti perché mi ricordo di più. Vabbè, bisogna avere esperienza con il carti, non è una cosa, ma cosa, 125? 175 è questo, la categoria A, mi sembra, B, non mi ricordo, 175 c'era, ce l'avevo già io, ne ho avuto due, io mi divertivo poco, solo erano tutte e due 125, a ottava. Già lo so portare, lo porto anche bene, adesso prenderò nuovamente la mano, non andrò a vederlo, ma per fatto anche la settimana scorsa si andava, solo che non ne avevo voglia, la verità. Ho detto già ci vediamo con calma, ma tu in attività no, che non ti preoccupare, è revisionato, pronto, quando viene mettiamo in moto e ti fai anche un giro, va bene. Prima io facevo servizio ambulanza lì, quando facevano le gare di go-kart, non ne perdevo una, tutte le domeniche c'ero. C'eravamo io, dottor Carta e il barelliere. Una volta c'era il figlio del dottor Carta che correva, lui ci ha sempre raccomandato, quando vedete qualche incidente aspettate che si fermino le macchine prima di andare, cazzo il figlio ha avuto l'incidente e si è buttato in mezzo alla pista, dottor Carta cosa sta facendo? Cazzo, si è già andato dritto, gli ha passato il go-kart sopra. Già ne ho visto brutta così, io con go-kart, come hai detto tu bisogna stare attenti, vabbè però... Basta andare piano, non hai bisogno di currimento di macchina. Carletto! Sì, ce n'è anche una vicino all'aeroporto di pista di go-kart, proprio sul rettilineo dove c'è l'agriturismo, come si chiama quello, proprio sul rettilineo prima delle curve dell'aeroporto. E poi ho visto che hanno aperto nuova una pista sterrata dove ci sono quelle moto e anche go-kart dietro l'aeroporto militare, perché qualche settimana fa stavo facendo il giro della perimetrale, no? Entriamo anche dentro l'aeroporto militare di notte e c'erano i fari accesi, ho detto cosa diavolo, sentivo questi rumori ed erano, c'erano questi ragazzi che avevano queste tipo quad, cose del genere, capito? E stavano gareggiando, capito? Di notte tardi, intorno alle 10 di notte. Cavolo. Sì. Io, Carlo, non c'era la pista per gli aerei, il modellismo, per l'aeromodellismo? Quella che c'è, Carlo, la pista dei kart, quella lì è la pista di Samandra, quella proprietà privata, però il terreno dell'agriturismo è quello. Esatto, sì, dove c'è Samandra è più in fondo al rettilineo, l'ingresso della pista invece è all'inizio del rettilineo sulla sinistra e c'è proprio segnalato pista go-kart eccetera e vedo che ci va un sacco di gente. Lì si fanno i campionati sardi, non lo so, ci sono andavo spesso io lì, c'era un vecchio con la pista, mentre l'altra sì, è una pista da quad, così... Non è niente di che, dai, niente di che, capito? No, io lo stavo decidendo, anche quello c'è, solo che è troppo impegnativo, capito? È troppo impegnativo. E poi su strada è anche pericoloso, perché un mio amico si è ribaltato, già troncando la mano a Ero Good, è uscito 2 mesi fa dall'ospedale, per poco ci rimane. Ha fatto una curva, si è sollevato, era troppo veloce, ci ha buttato fuori il carro, che è passato il cuore di sopra e c'aveva, era tutto ingessato, quindi non voglio rischiare queste cose. Col coccardi mi diverto piano piano, non è una futtinuta, ci sono le gare, vi entrare prima, cioè, basta gareggiare, basta divertirti, stare in compagnia, giornate diverse. Sì, no, il quad è pesante. pesante, se ti cade addosso ti fa male, non è come la moto bene o male più leggera, eccetera, ti fa male comunque, ma il quad è un bel peso, se si ribalta è pericolosissimo, quindi anche se hanno dei sistemi anti-ribaltamento, gli fanno un sacco di modifiche, insomma, sulle sospensioni, proprio per non ribaltarsi in quelle da competizione, però è pericoloso, è pericolosissimo. Invece il go-kart, diciamo, rimane più basso, tranquillo. Sì, lì ho visto che ci va un sacco di gente, anche appassionati così, con poca esperienza, oppure gente che non ne ha per niente di esperienza, va, magari fa un po' di prove da solo, magari in compagnia con un altro amico, è una cosa più rilassante quella dei go-kart. Andiamo in moto, usa go-kart. Cosa? Ah, tu usiamo la moto, se no mi, quelli ai 3-5 ci sono in giro, quindi il monopattino, 140 euro costa la ricerca. Monopattino, sì, monopattino, tanto non voglio un accio, c'è un problema. Monopattino, bisogna fare monopattino, provato, fatto. Abbiamo scaricato 300 da poco, non ho articolato, figurati. No, una cosa per ragazzini mi sembra a me, non so, vabbè, comunque. Gappa, oh raga, 8:30 sono, io vado a Giovambe, vi saluto, grazie delle chiacchiere, ciao Gianni, Carlo, appena hai notizie fammi sapere, che no, non c'è problema, manco te ne accorgi tu con la radio e scemo splendore, vabbè. Si sacrifica quella scheda che è nuova, si toglie quella lì e si mette quella nuova, senza stare a perdere tempo a girarti le balle, c'è anche finali già attaccati originali. Va bene, dai, ci sentiamo, buona cena a tutti, io vado a pappare, ciao ciao. Ciao Claudio, ciao, buona carica, dai. Claudio, stavo cercando di farti, Carlo, stavo cercando di fare una domanda, non ce l'ho fatta riuscire a parlare perché hanno parlato gli altri, vai, riprenditi dopo te la faccio. Ciao Claudio, senz'altro, già ti faccio sapere, grazie comunque, vai Gianni. Ho detto che lì nel rettilineo, prima di arrivare all'aeroporto sulla destra, c'è una stradetta che va in una campagna e lì andavo sempre a vedere quelli che fanno modellismo con gli aerei da modellismo, ma sono anche aerei grandi lì, c'era anche uno che era turbo addirittura, un caccia. Penso che non ci sia più però quella già, perché ci passo spesso lì e non ho visto più niente del genere, magari negli anni passati può darsi che ci fosse qualcosa. So che una pista c'è nella zona Platamona dove affittano aerei per volo turistico così e fanno anche aeromodellismo lì. Ah, ecco. Sì, quello lì già lo so dov'è, però io andando all'aeroporto, in quel rettilineo che c'è, dove c'è quel trattore vecchio, già hai capito, appeso. Io ho capito, quello è sulla provinciale principale, sì, dall'altra parte. Credo che non ci sia più niente però lì, Gianni. E allora non lo stanno più facendo lì, perché prima ho visto diverse gare io, gare proprio da professionisti, e facevano il volo della morte con gli aerei, li facevano girare più volte in aria. Di fronte lì praticamente c'è Sasegada, dove fanno la fiera della fragola adesso, ci devo andare la prossima settimana. Kappa. Cose dolci però, cose che piacciono, la fragola, oh, le ho comprate l'altro giorno, le ho fatte con lo zucchero, un po' di limone e poi quando c'è fatto proprio il succo, gli ho messo la panna sopra, oh, che sono buoni. Fatte con limone e lo zucchero sono fenomenali, sì, poi se ci metti un po' di panna, buonanotte. Una bomba. Sì, bomba di calorie, però comunque frutta e non fa male, basta non esagerare con lo zucchero, ne metti poco e limone e frutta, comunque acido citrico, non succede niente. sì, quel succhetto che fa è eccezionale. Oh, è più buono. E quello lì è, diciamo che è uno sciroppo, dai, uno sciroppo praticamente. È più buono quello delle fragole, se ti infitti. Sì, sì, poi si colora un po' col rosso delle fragole. Ed è eccezionale, hai ragione, anche a me piace molto. Poi Carlo, beccato, l'altra volta le ho prese non erano dolci, ma questa volta le ho prese erano belle, ma grandi e dolci dolci, e non ce n'era una guasta. L'altra volta invece mi hanno aperto le confezioni, mi hanno tolto quelle guaste, è stato gentile, quella della frutta e verdura che c'è in Moscardino, non so se sei dove, su al monte, dai. Mi hanno praticamente aperto le confezioni, hanno controllato se c'erano guaste, quelle guaste le hanno tolte e me le hanno sostituite con quelle buone. Sì, sì, perché comunque le fragole praticamente col caldo è facile che si deteriorino subito, per cui anche se sono fresche magari basta un po' di condensa sulla confezione e si forma subito la muffa, capito? Però basta toglierle, le altre magari le sciacqui bene, le asciughi e poi le sono buone lo stesso. Ma quando si guasta, anche se sono guaste da una parte, è tutta lì la parte guasta, se le assaggiano saporaccio cattivo di terra, di gozzo, bah. Comunque adesso è il periodo loro, adesso le trovi buone. Lì a Sasegada fanno la fiera della fragola, le vendono a poco prezzo anche perché ci sono le serre che le producono, capito? Nella tutta quella zona di Alghero che va da Sasegada a, come si chiama quello, zona Selle Mosca, insomma, quella zona lì. Ti ricordo che sulla Budibudi le coltivavano proprio sul terreno, le coprivano con un telo di nylon che aveva i buchi e sbucavano da questi buchi le piante, capito? Esatto, esatto. Già le fanno così, la coltivazione in serra delle fragole ormai è dappertutto così. Sì, ma questa era in terreno, non era in serra, è su terra, era sulla terra così, capito? Era fatta così. Ma sicuramente lì perché c'è caldo e maturano bene. Solo che la fragola è un frutto che piace molto agli uccelli. Secondo come va, ti mangiano tutto. Guarda, io tanti anni fa, quando avevamo la vigna che vivevo a Bonorva, avevamo proprio sotto l'albero di noci quelle fragoline piccole, piccole, piccole, capito? Che fanno la fioritura tardiva e praticamente, anziché a maggio, sono mature ai primi di giugno, ma erano dolci, dolci, dolci, dolci e fanno a tappeto, capito? Fanno a tappeto, ne producono tante, quelle sì che erano fragole buone, proprio quelle belle saporite, capito? Che la puoi mangiare appena colta ed erano eccezionali, non so che tipologia di fragola fosse, però era piccolissima, capito? Invece adesso quando tu vai a comprarle sono quelle giganti, capito? Una fragola è quanto una tazzina di caffè adesso. Perché li mettono dei concimi chimici adesso per farli ingrandire così? Non è possibile, ripetiamo. Poi a volte sono insapori, sono rosse fuori e bianche dentro e sono insapori, non hanno proprio sapore, bambe brutte. Invece questa volta le ho trovate grosse, belle, mature, belle dolci, cavolo, erano buonissime, cosa che per me, vabbè, non dovrei mangiarle, ma si vive una volta solo. Capito. Gianni, io purtroppo devo chiudere perché si è fatto tardi e mi chiamano per la cena. Ce la risentiamo. Benemera, non so chi altro ci sia. Ti saluto, grazie del QSO. Alle prossime, Gianni. Ciao Carlo, ci sentiamo. Buona serata. Stammi bene, dai. Alle prossime. Dai, chiudaccio che devo portare giù il cane, non mi sono accorto che era così tardi. Vabbè, però c'è caldo prima e quindi vado adesso. Dai, ciao ciao, ci sentiamo. Ciao Gianni, alle prossime, ciao. Ci sei? Sei Natali. Ciao Carlo, ciao anche a Gianni. Ciao a tutti, buona serata. Ciao Marco. Ciao Marco, ciao Marco, ci sentiamo, ciao, buona serata. Luca. Canale 40. Sì, io? Sì. Ciao Luca, a dopo. Stadio Avvocato. Ciao Marco, a dopo. Ciao Carlo, ciao Gianni. E beh già. Luca, non ti preoccupare più, ho già risolto, va. Ok, da, perché devo controllare una cosa, là, sopra arrivata a casa. Vabbè, meglio così. Ciao, grazie, lo stesso, dai, ciao, ciao. Ciao. Che vedo un po' se l'ho regolato bene. Marco? Marco, ci sei? C'è qualcuno qua? Marco? Marcolino? Marcolino? C'è qualcuno qua?